Allora, io e Domenico abbiamo pensato di organizzare così la nostra presentazione, ne abbiamo parlato con Futura, ci ha dato il suo assenso, e quindi faremo delle brevi citazioni dal libro e poi lei ci parlerà appunto del... allargherà l'argomento. La prefazione del libro è di una persona che noi consideriamo un nostro amico, oltre che un esempio, è padre Alex Zanotelli, che con noi condivide tante idee, tanti momenti, e quindi ci fa piacere cominciare con una breve citazione appunto dalla sua prefazione. Se il nostro stile di vita non è negoziabile, non ci rimane che armarci e fare la guerra per ottenere quello che non abbiamo. Ma questo sistema economico-finanziario militarizzato, che sta facendo guerre a non finire per avidità e bramosia, sta pesando enormemente sull'ecosistema, che sopporta sempre meno la presenza dell'Homo sapiens. Questo nostro sistema è un sistema di morte, che uccide per fame, per guerra, milioni di esseri umani e sta distruggendo la Terra. Dobbiamo recuperare il ben dell'intelletto per cambiare questo sistema economico, finanziario, militarizzato. È questione di vita o di morte. Lascio la parola a Futura. Grazie. Grazie a voi per l'ospitalità e anche per questa primaverile presentazione. Sì, l'introduzione sicuramente dà un po' il taglio, ecco, di questo libro, in cui sì, è un libro che parla di armamenti, di quello che l'Italia produce e soprattutto di che fine fanno le nostre armi, perché ho iniziato un po' a parlare di questo tipo di argomenti a livello giornalistico partendo proprio dall'export militare. Però il quadro che ci dà padre Zanotelli appunto ci fa capire quanto le armi non siano solo armi. Non è qualcosa che è legato unicamente ad un contesto bellico come può essere la guerra in Ucraina, di cui ormai sentiamo parlare da un anno a questa parte, ma riguarda veramente la vita di tutti quanti noi nel nostro quotidiano, perché magari non ce ne rendiamo immediatamente conto, ma è un settore che ha miliardi di diramazioni che si collegano molto spesso anche col civile, anche con il settore dell'istruzione. Ultimamente lo vediamo con le scuole, lo vediamo con l'università, in cui i rapporti tra il settore militare e quello appunto accademico-scolastico sono sempre più stretti, quindi sì, in realtà sarebbe anche bello vedere questo libro un po' più nelle scuole, perché c'è molto spesso alcuni legami non vengono colti immediatamente, come non viene colto, a mio parere, anche il legame molto spesso tra il settore delle armi e quello dell'immigrazione, quindi dei flussi che poi arrivano verso l'Europa e a cui noi rispondiamo ancora una volta attraverso la militarizzazione. E Zanotelli fa un ottimo riferimento anche alla parte, all'impatto ecologico che questo settore ha, che è anche un aspetto molto spesso trascurato. Io non ne ho parlato in maniera approfondita nel libro, in realtà è comunque un argomento che ho trattato per livello giornalistico con Domani, però effettivamente produrre armi, usare queste armi ha un impatto ecologico veramente molto pesante, e di cui è difficile avere una reale contezza perché sono dati segretati. Come spesso accade, il mondo militare è protetto anche dal segreto di Stato, comunque dal segreto relativo alla sicurezza nazionale, quindi veramente capire quanto questo impatta sul nostro ecosistema è difficile. Sicuramente abbiamo diversi esempi che ci possono far intuire quanto l'impatto sia pesante, l'abbiamo visto anche con la guerra in ex Jugoslavia ancora prima, o comunque un caso che io cito nel libro è quello delle mine che si trovano tuttora dopo 30 anni, sono mine italiane, al confine tra Iraq e Iran. Quindi veramente anche considerare l'impatto ambientale di quello che noi produciamo è effettivamente molto importante, perché ci dà la misura di quanto appunto il mondo militare sia veramente non solo militare, ma abbia un impatto fortissimo su tutto quello che noi, sulla nostra vita quotidiana. Un altro esempio secondo me importante da questo punto di vista in Italia è la Sardegna, con le basi militari che abbiamo in Sardegna, con i poligoni, in cui sono aree che poi vengono investite anche da un aumento di tumori, comunque sono zone in cui non si potrà mai più probabilmente riadibirle per usi civili, come possono essere banalmente l'agricoltura, o comunque sono sempre zone in cui bisognerebbe andare, insomma, con un attimo di attenzione. Quindi ecco, Zanatelli fa sicuramente una bella introduzione in generale, ma anche perché allarga lo sguardo su quelli che sono gli effetti generali del mondo della difesa. Passo la parola a Domenico. Grazie, grazie Daniela, grazie Futura. Riparto da Zanatelli, nel senso che effettivamente una persona, ce lo dicevamo prima, che in un certo qual modo fa un po' da triangolo. Noi l'abbiamo incontrato tante volte lungo il cammino della Marcia della Pace Perugia-Assisi, l'abbiamo incontrato ultimamente ancora il 5 novembre a Roma nella grande manifestazione nazionale per la pace. È una persona che è sempre presente e con la sua voce effettivamente denuncia e pone l'accento su quello che sono i diritti umani di tutte le persone, oltre che quello che è la dimensione ambientale fondamentale, giustizia sociale, giustizia ambientale e quant'altro. Non è scontato fare l'introduzione, la prefazione a un libro di questo tipo da una persona come Zanatelli. Denota il fatto che c'è una dimensione anche umana che effettivamente attraversa tutto il libro. Una cosa che salta subito agli occhi, un mettere in relazione quello che è il commercio delle armi con quelli che sono i diritti umani. E di qua infatti vorrei partire poi per la seconda domanda, e lo facciamo, come abbiamo detto prima, con un'altra citazione, per poi lasciare di nuovo la parola Futura. Il libro, appunto, nella sua introduzione Futura scrive: «La vendita di materiale militare, agevolato da politiche nazionali che in molti casi mettono in secondo piano i diritti umani e che violano quanto previsto dalla Costituzione italiana, contribuisce a creare situazioni di instabilità o ne ritardano la risoluzione. Il nesso tra difesa e sicurezza, dunque, ha un alto valore propagandistico, ma trova scarso riscontro nella quotidianità e segna una distanza crescente tra i valori che dovrebbero regolare la vita della Repubblica e le scelte del governo. Da questa consapevolezza nasce crisi globali e affari di piombo». E ancora dopo, subito dopo: «Spesso i diritti umani e gli stessi principi della nostra Costituzione sono messi in secondo piano rispetto a logiche che prediligono il ritorno economico e il raggiungimento di obiettivi in politica estera. Dietro ogni bomba, missile o carro armato prodotto in Italia si nasconde una storia di morte troppo spesso ignorata». Ecco, Futura, rispetto a quello che è proprio l'export di armi, proprio quali sono gli attori in campo nostri, gli interlocutori e le politiche nazionali che continuano ad alimentarlo? Sì. Che è un po' l'inizio del tuo libro, mi pare. Sì. Sì, il libro nasce un po' come un manuale, nel senso che è pensato sia per chi già è un po' più esperto di questo settore e magari vuole approfondire alcuni temi, ma anche per chi effettivamente si approccia per la prima volta a questa materia. Quindi la prima parte effettivamente è un po' più dedicata a quelle che sono le aziende che operano in Italia, perché magari sono nomi a cui noi siamo abituati, come Leonardo, Fincantieri, che sono le più grandi aziende che abbiamo in Italia, sono tra l'altro veramente molto grandi. Però in Italia ci sono 4.000 aziende, anche più piccole, alcune un po' più nuove che si stanno affermando, altre che magari sono note come la Ferretti per fare le yacht di lusso, ma che da poco ha aperto anche una linea militare. Quindi sono comunque un mondo veramente molto in divenire, perché anche grandi aziende che si sono sempre occupate di altro hanno capito che effettivamente quello militare è un settore molto remunerativo. La stessa Leonardo comunque inizia a occuparsi di militare, prima si chiamava Finmeccanica, dagli anni 70 in poi, perché comunque anche lì si capisce il valore economico che questo tipo di settore può avere, che comunque è un valore che secondo me viene propagandato molto, per questo parlo poi di propaganda nella parte che tu hai letto, perché quello che il governo ci racconta è comunque, ovviamente anche le aziende che sono direttamente interessate a promuovere i loro interessi, è che questo settore sia un settore strategico per l'Italia, strategico dal punto di vista economico, cioè che una sua riduzione, una chiusura di alcune fabbriche o una conversione al civile di una parte di questa produzione sarebbe un danno economico per l'Italia eccessivo da sopportare. Quindi la solita narrazione delle famiglie che finiscono per strada, a cui siamo abbastanza abituati. Poi però andando a vedere i numeri in realtà è una narrazione esagerata, perché la produzione di questo materiale in Italia a livello industriale vale meno dell'1% del PIL, considerando che per esempio la parte turistica senza l'indotto vale il 6%, quindi sembra evidente a questo punto che strategico non è esattamente la parte del militare, forse era più quello del turismo. Comunque veniamo da 2 anni di pandemia, magari quello su cui bisognerebbe investire di più sono altri settori come quello della sanità, per non parlare dell'istruzione. Insomma, in Italia abbiamo vari capitoli di spesa che andrebbero un po' più considerati rispetto a questo. Però ecco, c'è questa narrazione per cui invece il settore della difesa è strategico e va quindi tutelato. Cosa vuol dire tutelare questo settore? Vuol dire aiutare anche queste aziende che operano in Italia ad avere delle entrate, perché poi ovviamente parliamo di produzioni che sono molto molto costose e quindi ovviamente più si produce e più i costi si abbassano, e in questo lo Stato può dare una mano. Infatti i rapporti tra lo Stato e il settore difesa sono molto stretti, a partire dal fatto che sia Leonardo che Fincantieri sono 2 aziende con partecipazione statale, quindi promuovere gli interessi di queste aziende vuol dire a tutti gli effetti, e questa è una cosa che viene detta tranquillamente anche dai governi, promuovere gli interessi statali, quindi gli interessi dell'Italia. Però un altro dato interessante è quello che riguarda l'export, cioè la produzione italiana delle aziende italiane è destinata per il 70% al mercato estero. Quindi questa dinamica fa anche un po' cadere l'idea per cui il settore della difesa va promosso, va incentivato e va sostenuto, perché è difesa nazionale, perché c'è un interesse della nostra nazione dietro questo settore, dietro il suo essere florido, il suo continuare a operare anche in periodi di crisi. Infatti uno di quei pochi settori che durante la pandemia ha continuato a operare perché è considerato strategico, quindi le industrie della difesa non si sono fermate, non hanno chiuso come è successo in altri comparti. E tra l'altro sono le uniche che hanno continuato a crescere in maniera veramente esponenziale. Ed è comunque, secondo me, è un dato molto interessante, anche perché proprio all'inizio della pandemia si parlò di riconversione di alcune industrie, perché in Italia per esempio c'è solo un'industria che fa ventilatori polmonari, che erano indispensabili durante, soprattutto nelle prime fasi dell'emergenza Covid. Di questo progetto non si è mai fatto niente, però effettivamente la legge 185 del 90, che è la legge che regola l'export e che in generale, diciamo, si interessa di regolare il mondo della difesa, della produzione della difesa, prevederebbe anche una riconversione civile, quindi l'andare verso una riconversione delle fabbriche, quindi un cambio anche economico dell'Italia, per cui non l'industria della difesa diventa magari un altro tipo di industria. Però ecco, sono tutti progetti che sono poi rimasti assolutamente sulla carta, che però danno proprio la dimensione di quanto un certo settore sia a suo modo intoccabile. E questo dipende anche dai grandi collegamenti che ci sono tra le aziende, che sono a tutti gli effetti private o privato-pubbliche, appunto nel caso di Leonardo Fincantieri, e lo Stato, veramente a prescindere poi da quello che sia il colore politico del governo al momento. L'abbiamo visto in realtà molto recentemente con questo governo in particolare, perché se noi pensiamo al nostro ministro della difesa, Crosetto, che viene comunque dal mondo militare, cioè lui è stato fino a poco prima il presidente dell'AIAD, che è la lobby che si occupa di promuovere gli interessi delle aziende della difesa. Legittimo, nel senso, comunque una cosa che si può fare, però quando poi ti trovi una persona che fino all'altro ieri faceva non solo questo, ma anche il consulente di Leonardo e altre aziende della difesa, a capo del Ministero della Difesa, è quello che poi anche decide che cosa l'esercito deve comprare, quindi a quale aziende andranno queste agevolazioni, che poi comunque, ok, 70% è destinato all'estero, però il 30% è destinato al mercato italiano, e quindi sono soldi che arrivano alle aziende dai programmi statali, quindi che lo Stato ogni anno decide su base tra l'altro pluriennale, quindi parliamo di investimenti di somme molto alte e che continuano poi nel tempo, quindi hanno anche degli aggiustamenti, per cui poi sono sempre prezzi che costi che continuano a lievitare, soprattutto poi nel momento in cui con la guerra in Ucraina a maggior ragione si parla sempre più spesso di questo aumento della difesa, di andare sempre più verso il 2%, che è un obiettivo che in teoria noi come paese dovremmo raggiungere nel 2028, ma insomma con questo governo mi aspetto che comunque si raggiunga anche prima, perché basta vedere in realtà anche quelli che sono gli obiettivi nei prossimi anni del governo, appunto su aggiornamenti dei sistemi, anche voglia di comprare nuovi armamenti, quindi veramente la direzione che stiamo prendendo è quella, più che quella di magari appunto, ecco, investire in settori come la cultura, la sanità, l'istruzione in generale, che pure vengono anche in questo caso molto spesso tutta l'istruzione, magari anche un po' circuita poi dal mondo militare, nel momento in cui, poi avete visto anche a Torino, per fare un esempio ben vicino, ci sono comunque Leonardo e altre aziende che poi si avvicinano al mondo accademico e con contratti che in questi casi prevedono anche la Frontex, e quindi torniamo anche poi al fronte migrazione, come sia veramente tutto quanto una grande catena, sono tanti anelli che poi si collegano e che ci portano a vedere come la nostra vita quotidiana, ad andare all'università e fare un dottorato, possa in qualche modo comunque essere collegato a quello che accade lungo le frontiere europee, che siano quelle mediterranee piuttosto che quelle della rotta balcanica, insomma in questa grande Europa che ormai è diventata appunto sempre più una fortezza Europa, quindi come viene spesso raccontata. Eppure noi abbiamo una legge che dovrebbe insomma anche un po' aiutarci nel regolare quello che accade, perché appunto c'è questa 185 del 90, che mi piace ricordare, poi anche in questo contesto nasce dietro pressione della società civile, sia laica che cattolica, quindi un grandissimo movimento che negli anni 80 prende piede, perché grazie tra l'altro ad un operaio della Lemacchi, che è un'azienda che adesso è parte della Leonardo, che faceva velivoli militari, che denuncia che l'Italia vendeva al Sudafrica elicotteri militari in violazione di un embargo che era già in piedi da un po'. E quindi tutto questo porta a delle inchieste giornalistiche e poi anche ad una società civile che si impegna e che si unisce anche, che appunto parliamo sia di organizzazioni civili che laiche, che cattoliche, che insieme fanno pressione al governo e che deve a un certo punto fare qualcosa, e quindi nasce questa legge che colma un enorme vuoto, perché prima non c'era assolutamente nulla. Quindi il governo fino al 1990 ha potuto effettivamente vendere senza dover dar conto al Parlamento e quindi poi ai suoi cittadini, perché tutto era coperto da segreto militare, e invece poi decade con questa legge. Quindi questa legge effettivamente poi regola più l'export che non tanto la produzione italiana, perché poi comunque in Italia bene o male, al di là di quello che prevedono trattati internazionali su alcuni settori, come ad esempio le mine che adesso non si producono più, bene o male è una produzione lasciata molto al libero mercato, cioè a quello che effettivamente viene richiesto poi dai nostri acquirenti. Lascerei. Vado, sì. Proseguo? Ok. Allora, c'è un capitolo di questo libro che è particolarmente significativo, nel senso che colpisce proprio perché adesso ci ha parlato di quello che è l'area di produzione, di vendita, i finanziamenti, però chi sono i destinatari, i principali destinatari di tutto questo commercio? Ecco, in questo capitolo tu individui i principali destinatari ponendo alcune questioni etiche, ponendo questioni che tra l'altro noi condividiamo e denunciamo da sempre. Tra i principali acquirenti, e questa poi insomma ci dirai, però tu poni ad esempio l'Egitto e la questione di Giulio Regeni, quindi come sono correlate le due cose. Poni la Libia e la questione delle migrazioni, con insomma delle parole giustamente dure. Quanto noi, che poi a parole magari condanniamo o ci dichiariamo insomma contriti di fronte ad alcune tragedie, alimentiamo, sosteniamo, finanziamo torture, centri di tortura e quant'altro. Parli degli Emirati Arabi e dell'Arabia col conflitto nello Yemen, parli della fornitura di 94 carri armati alla Russia nel 2015 in embargo già attivo. Parli di alcune questioni. Ecco, vorresti un po' su questo soffermarti e insomma su alcuni, quelli che ritieni. Sì, questi sono soltanto ovviamente alcuni dei pochi casi che incredibili al loro modo, perché parliamo di governi che assolutamente non rispettano i diritti umani e che sono in stato di conflitto. E che suonava molto strano, perché appunto la legge 185 del 90 stabilisce dei criteri che l'Italia deve rispettare per poter autorizzare questo tipo di esportazioni, e nello specifico afferma che non si possono vendere o cedere materiale militare a paesi che sono in conflitto che partecipano dei conflitti e che non rispettano i diritti umani o che destinano una parte eccessiva del PIL al settore della difesa. Quindi, diciamo, sapendo solo questo, avrebbe appunto da chiedersi perché continuiamo a vendere a paesi come Emirati Arabi, il Pakistan, l'India, l'Uzbekistan, il Turkmenistan, tutti i paesi, appunto la Libia, come ricordavi giustamente, paesi in cui i diritti umani assolutamente non sono pervenuti, ma anche la stessa Turchia, che è uno stato sempre più autoritario, autocratico, anche quello è uno dei nostri grandi acquirenti. Tutto questo purtroppo continua ad accadere perché la legge è, a mio parere, una buona legge da cui si potrebbe ricavare molto, ma che ha delle zone un po' grigie di cui i governi possono approfittare per poter continuare a vendere senza violare bene o male nulla. E questo perché la legge appunto dice ok, non possiamo vendere a tutti questi a paesi che non rispettano i diritti umani, sono in stato di conflitto, in stato di guerra, però ci deve essere un organismo internazionale, quindi sarebbe l'ONU o in alcuni casi l'Unione Europea, che certifica che c'è quella violazione, che certifica che c'è una guerra in corso o che certifica che quel paese è in qualche modo correlato a quella guerra. Questo purtroppo molto spesso non accade. L'abbiamo visto anche in Europa quando si parlava dell'Arabia Saudita e degli Emirati o nel caso della Turchia. Non c'è una presa di posizione vera, per cui non viene molto banalmente imposto un embargo, parziale o totale che sia. E comunque in qualche caso, quindi la Russia, riusciamo a trovare delle scappatoie per cui comunque certe autorizzazioni vengono concesse. E quindi dei casi che tu riportavi, ecco, sicuramente quello della Libia è, tra l'altro in quel caso non parliamo neanche di vendita di materiale ma di cessione, cioè quindi sono cose che noi stiamo dando effettivamente a nostre spese, o spese poi dell'Unione Europea a seconda dei progetti di cui parliamo. E che comunque anche lì decade, a mio parere, il concetto di interesse nazionale, per cui noi diamo motovedette e forniamo anche addestramento alla Guardia Costiera Libica per una questione poi di per bloccare semplicemente i flussi migratori, che poi alla fine dei conti stiamo vedendo che non sta funzionando molto bene, perché una cosa simile la facciamo anche con la Tunisia, e la Tunisia negli ultimi mesi è la principale, diciamo, il paese principale di partenza dei flussi migratori che poi arrivano in Europa. Però ecco, nel caso della Libia poi abbiamo che con queste stesse motovedette i libici sparano contro i pescherecci italiani, perché c'è una contesa sulle zone di pesca tra l'Italia e la Libia, o ancora più recentemente sparano contro le ONG che cercano di salvare i migranti, che invece loro poi riportano nelle bellissime carceri libiche, anche quelle finanziate con i soldi europei. Però anche lì, col fatto dell'interesse nazionale e della necessità del governo, non solo questo attuale ma anche quelli precedenti, perché insomma i memorandum con la Libia hanno avuto dai loro firmatari sia Berlusconi che Minniti, quindi parliamo di governi tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, però in totale violazione dei diritti umani, assolutamente. Poi la Libia non è neanche un stato, cioè veramente con quale Libia, con Tripoli, perché poi ci sono altre due Libie quantomeno. O ancora il caso della Russia è particolare, perché poi lì c'è per esempio contemporaneamente di mezzo sia il governo Berlusconi che il governo Renzi, quindi anche là vediamo come questa commissione alla fine tra lo Stato e il settore delle armi non cambia quando cambia il tipo di governo. E anche lì in realtà non poteva esistere questo tipo di export, perché dal 2014 è in vigore un embargo nei confronti della Russia, però l'esportazione è stata autorizzata nel 2011 e quindi tramite anche lì dei cavilli si è riusciti comunque a portare avanti questo tipo di export. Poi tra l'altro ovviamente la nota mi fa ancora un po' più ridere, per non dire che fa piangere, che 11 carri armati comunque non sono mai partiti e l'Italia ha cercato di vendere l'Ucraina. Quindi sarebbe stato, non carri armati, perdonatemi, sono dei blindati, quindi cioè magari si sarebbe anche trovati uno contro l'altro con lo stesso armamento nostro. Dall'altro l'Italia vende contemporaneamente sia all'India che al Pakistan, che sono comunque due paesi che stanno in un certo senso di conflitto da decenni. Però ecco, un caso che mi piace sempre ricordare è quello degli Emirati Arabi e dell'Arabia Saudita, perché ci dà molto il quadro di quello che questa legge in realtà potrebbe fare. Perché noi abbiamo venduto per tanti anni bombe e siluri all'Arabia Saudita e agli Emirati. L'Italia ha smesso di farlo nel 2019, ha smesso perché quell'anno, grazie ad un'inchiesta giornalistica non italiana però, si è scoperto che quegli armamenti finivano in realtà nelle mani delle milizie in Yemen, che erano comunque legate ad Emirati e Arabia Saudita. Con queste bombe sono stati uccisi anche dei civili, in particolare questa inchiesta raccontava il caso di una famiglia di 7 persone, di cui 5 bambini morti sotto queste bombe in Yemen. Questo caso, insomma, ha creato poi una discussione molto forte in Italia, sempre comunque che derivante dal basso, quindi dalle organizzazioni civili che hanno fatto presente, insomma, quello che stava succedendo. E lì il Parlamento, che in teoria avrebbe comunque il compito di controllare quello che il governo fa, a un certo punto ha dovuto fare anche loro qualche cosa, perché stava montando un po' troppo il caso. E grazie alla 185 del 90 sono riusciti a far sì che il governo, che quello il caso era il governo Conte 2, interrompesse questo tipo di export, quindi revocando e cancellando le autorizzazioni che erano già state concesse. Quindi questo dimostra quanto una legge, se effettivamente ci fosse, in questo caso direi un Parlamento che a quel punto fa quello che deve fare, cioè controllare e fare pressioni, potrebbe darci molto più di quello che dà. Però qui torniamo al punto di prima: se il governo di destra e un governo di sinistra hanno gli stessi interessi, perché gli interessi delle grandi aziende italiane della difesa sono interessi statali, allora come possiamo aspettarci un ruolo di controllo da persone che hanno però interesse a favorire certe aziende? Non possiamo aspettarcelo, almeno questo è il mio punto di vista. E comunque, considerando le pochissime interrogazioni parlamentari che sono state fatte su quello che l'Italia vende, abbiamo un ragionamento non del tutto sbagliato, perché veramente abbiamo solo un caso in Italia dal 1990 ad oggi in cui abbiamo usato questa legge per revocare un export già concesso. E solo perché c'è stata un'inchiesta internazionale e una famiglia di 7 persone morta, ed è l'unica di cui ne abbiamo contezza, perché veramente purtroppo non sarà stata l'unica e neanche l'ultima, che comunque parliamo di una guerra ancora in corso. Quindi sì, ci sono dei casi che io trovo veramente assurdi e che continuano però a essere tali, perché l'Italia comunque esporta principalmente verso paesi che sono paesi non democratici, che si trovano nell'area del Medio Oriente piuttosto di quella del Golfo, e poi vediamo però in cambio di che cosa, perché molto spesso sono veramente un do-ut-des, per cui il caso del Qatar io penso sia emblematico da questo punto di vista. Nel momento in cui l'Europa, e quindi anche l'Italia, si è dovuta staccare dal gas russo, si è rivolta a paesi che ugualmente non sono paesi democratici, come per esempio il Qatar, a cui abbiamo venduto materiale militare in cambio di contratti con l'ENI. Quindi anche lì, tra l'altro voglio anche sottolineare che magari se i nostri governi avessero puntato prima sulla transizione ecologica, non avremmo dovuto fare un cambio da un regime all'altro per poter sopravvivere al distacco del gas russo. Quindi anche questo, quando si parla di interesse nazionale, secondo me è importante sottolinearlo, perché poi l'interesse nazionale però diventa anche una gabbia alle volte, cui poi sei costretto, sì, perché vendere materiale militare, vendere un'arma, vendere una fregata come nel caso dell'Egitto, non vuol dire soltanto vendere una cosa e poi il giorno dopo potersi fare la guerra o smettere di avere rapporti diplomatici. Vuol dire che tu sei costretto come Stato a continuare ad avere un rapporto con quel paese. E viceversa, che ovviamente un paese che acquista da noi non ha nessun interesse il giorno dopo a interrompere i rapporti diplomatici o comunque ad avere degli screzi sotto altri punti di vista. Però anche per noi vuol dire non poter fare delle pressioni. Cioè, come può l'Italia fare pressione al Qatar, per esempio, poi abbiamo visto il Qatar Gate dall'europeo, e ad un paese per il rispetto dei diritti umani, ecco, al momento in cui poi vuol dire magari non avere più un acquirente, e parliamo tra l'altro di acquirenti che quando fanno degli acquisti sono veramente molto ingenti, quindi è un po' poco bello riuscire a poi perdere. Però ecco, il caso dell'Egitto poi forse è ancora peggiore di quello yemenita, perché nel caso dell'Egitto noi abbiamo un nostro ricercatore, un nostro concittadino che è stato torturato, ucciso, tra l'altro poi abbandonato per strada il cadavere, depistati fino ad oggi le indagini e tutto quanto, e noi abbiamo continuato tranquillamente, imperterriti, a vendere materiale militare all'Egitto. C'è stato soltanto un momento in cui il Parlamento stava pensando di interrompere la fornitura di pezzi di ricambio. Quindi importanti, per carità, anche quelli, però comunque veramente messo scarsamente in discussione. Anche i rapporti diplomatici alla fine dei conti sono continuati, però, e anche lì poi parliamo di fregate, quindi comunque di navi militari altamente avanzate a livello tecnologico, tra l'altro date anche lì, cioè con dispregio a un certo punto anche l'interesse nazionale, nel momento in cui loro ci hanno veramente ucciso un nostro connazionale. Poi abbiamo avuto anche il caso di Patrick Zaki, che okay, non era un cittadino italiano, però comunque è uno studente della nostra università, Tutto questo però continua perché l'interesse nazionale è preminente rispetto ai diritti umani, per quanto la legge italiana, ma anche la legge europea e poi anche quella internazionale, che poi sono anche più livelli, prevede in teoria che sia sono i diritti umani a dover essere la prima nostra considerazione, però vediamo che proprio così non è. Grazie. Sì, bisogna sempre, quando si parla dell'interesse nazionale, penso sempre a cos'è veramente l'interesse nazionale, perché è nostro interesse davvero. Se si chiedesse alle persone, anche disinformate, il tuo interesse, l'interesse nazionale, qual è? Io non credo che nessuno, anche i più spaventati, parlerebbero di questo. Non si... Tutti noi non ci rendiamo conto di quello che ci accade. Leggere questo libro è un po' anche... Quando io ho finito di leggerlo ho avuto l'impressione proprio... Sono cose di cui, tra l'altro, appunto, noi ci occupiamo normalmente, quindi siamo già abbastanza informati rispetto ad altre persone. Però leggerlo tutto insieme, così, proprio sotto forma di manuale, come diceva Futura, ti dà proprio l'idea di essere chiuso in una gabbia da cui è molto difficile uscire. Allora tutti noi facciamo ogni giorno le nostre azioni, cerchiamo di organizzarci, la società civile, come dice giustamente Futura e come più volte ribadita nel libro, è stata l'unica che è riuscita a smuovere in qualche cosa questo processo infernale, perché tale è, però è proprio, ci si rende proprio conto di come sia difficile, ecco, riuscire a scalzare questa situazione. E quindi io adesso vi leggo un pezzetto delle conclusioni e poi chiederei proprio a Futura lei che impressione ha. Quale ritiene sia l'azione che sia la società civile, sia i governi, i parlamenti, questi parlamenti che dovrebbero agire e non agiscono, cosa si può fare per cambiare minimamente questa difficilissima situazione? Ecco, qui ad esempio nelle conclusioni ci sono queste parole. L'idea che più investimenti nel settore militare equivalgano a una maggiore sicurezza ha trovato nuovamente terreno fertile in Occidente con lo scoppio della guerra in Ucraina. Ma la narrazione secondo cui il rafforzamento della potenza militare di un paese corrisponda inequivocabilmente a una maggiore sicurezza interna e nell'area di riferimento non tiene conto delle lezioni del passato e del presente. Guardando alle politiche messe in atto dagli Stati europei negli ultimi anni, è possibile notare come la vendita di armamenti a paesi coinvolti in teatri bellici e che rivendono o cedono il materiale acquistato abbia finito con l'alimentare guerre, contribuendo pertanto all'instabilità di determinate aree del mondo. Un'instabilità che si traduce anche nell'aumento delle migrazioni, cosa di cui parlavamo prima, le cui direttrici puntano con crescente frequenza verso il vecchio continente. E quella della risposta dell'Europa, però, qui si continua, è quella di continuare a militarizzarsi, di continuare a trasformarsi in una fortezza, probabilmente senza appunto che la maggior parte di noi abbia una coscienza, una consapevolezza di come queste cose siano strettamente legate. Il fatto ambientale, l'ecologia, i danni sull'agricoltura, i danni sui paesi, l'instabilità che si crea e tutto quello che ne viene di deteriore, di drammatico per tutta l'umanità. In realtà è questo quello di cui non ci rendiamo conto, che siamo tutti nella stessa situazione e peggioriamo tutti la nostra situazione attraverso questa spropositata vendita di armi, che è una specie di, in un certo senso, un teatro dell'assurdo, perché al di là del fatto che queste armi purtroppo siano vere, uccidano persone, famiglie intere, non solo quei sette poveri dello Yemen, ma molti altri, è veramente un'assurdità che noi viviamo tutti i giorni, viviamo sempre di più, perché in questi ultimi tempi tutto questo e viene esaltato. L'altro giorno mi ha colpito una cosa che ho sentito, perché in questi giorni si parla molto del centenario dell'aeronautica in Italia, e l'esempio delle figure femminili all'interno dell'aeronautica è stato dato dalla prima pilota di F-35. Cioè, è veramente un'aberrazione. Esatto, esatto. E quindi vorrei chiedere proprio a Futura che chiave lei ci dà per una possibile azione, per un possibile, una prospettiva di cambiamento in questo senso. Domanda difficile, effettivamente uno poi cerca sempre un minimo di speranza nel futuro, sì. Lo capisco, la cerco anche io quando poi faccio questo tipo di lavori. Non so, io guardando al passato direi che lì possiamo trovare anche una speranza per il futuro. Quindi appunto abbiamo una legge che con mille difetti è comunque una legge importante, certo. Perché prima non c'era assolutamente nulla, che nasce dalla società civile, nasce anche banalmente dal senso di rimorso di un operaio che vede che quello che lui fa poi finisce con uccidere le persone, in quel caso in Africa. E questo secondo me fa molto, perché questo vuol dire che anche una persona singola, anche il singolo operaio, quindi anche una persona come noi, può effettivamente avere un ruolo, se però ha intorno anche delle reti che sono in grado di recepire quelli che sono le sue istanze, quello che vuole portare avanti. Per questo credo che la società civile sia molto molto importante, e purtroppo vedo che un po' si è spenta questa attenzione verso alcune tematiche. Comunque c'è anche molto spesso una grande divisione, perché ognuno si occupa di un certo settore ma non guarda all'altro. Eppure abbiamo visto che il settore delle armi ha bisogno di un'opposizione che sia sul fronte migratorio, che sia sul fronte civile, che sia sul fronte dell'ambiente. Sono tantissime lotte che possono unirsi e che possono portare a un cambiamento contro il settore della difesa, delle armi, con tutto quello che comporta appunto a livello di impatto negativo sulla nostra vita. Dall'altra parte vedo che comunque c'è ancora una società civile attiva, e insomma anche il fatto di essere qui comunque secondo me è positivo, perché anche informarsi, anche farsi delle domande, cercare delle risposte che non siano solo quelle ufficiali, è comunque, cioè, un qualcosa che può portare ad un impegno maggiore. Quindi io vedo in noi, anche riuniti qui oggi di venerdì sera alle ormai 10, una piccola speranza, cioè qualcosa che comunque ancora si può fare. Vuol dire che non è tutto perso, e comunque questa guerra in Ucraina, con tutto il male che ha portato, ha riacceso anche un po' le coscienze su quello che vuol dire poter vivere in pace, aver vissuto in pace fino ad oggi. Comunque noi personalmente ancora viviamo in un clima non di guerra, e quello che invece poi, cioè, è l'impatto, quello che si può fare, dove stiamo andando. Perché anche guardando i sondaggi, poi la maggior parte della popolazione italiana non è a favore dell'aumento delle spese, per esempio. Questo però ci deve portare anche a essere più esigenti, secondo me, verso i nostri politici. E non parlo solo di quelli che sono al governo, ma anche di quelli che sono all'opposizione. Perché abbiamo visto che il Parlamento può fare molto, ma noi dobbiamo essere forse più esigenti verso chi poi andiamo a votare. Perché anche questo dover scegliere sempre il male minore, poi però ti porta ad avere in Parlamento persone che raramente si interessano a quelli che sono l'operato poi del governo che in quel momento è in carica. Quindi no, secondo me si può fare molto anche con gli strumenti che l'Unione Europea ci offre, perché abbiamo comunque anche lì un altro, cioè quello che viene deciso in Europa, degli effetti anche a livello poi nazionale. Appunto, ne abbiamo anche una legislazione europea che regola l'export delle armi, che anche lì ha dei lati positivi e negativi, però anche investendo in quel settore, tra un po', insomma, l'anno prossimo sono anche le elezioni europee. Cioè, secondo me abbiamo diversi strumenti. Tutto sta prima di tutto nel sapere che ce l'abbiamo, perché non è sempre scontato, e alcuni li ho scoperti anch'io facendo questo libro, che prima non li sapevo, e facendo rete tra di noi, cioè tra le realtà che già esistono, tra chi come me fa la giornalista, chi come voi invece recepisce queste istanze, e chi è qui questa sera ad ascoltarci, magari domani ne parlerà con qualcun altro, che ne parlerà con qualcun altro. Intanto grazie, io farei un applauso adesso. Perché che una speranza sono sicuramente anche le persone come Futura, giovani, che scrivono libri di questo spessore. Credo che questo sia sicuramente una grande speranza. Ti ringrazio anche, o ti ringraziamo, per il fatto che comunque ci hai un po' rincuorati, perché effettivamente anche il lavoro di rete sui territori, questo cercare di tenere insieme le diverse istanze è faticoso, sembra sempre che si spenga, far capire che occuparsi di ambiente, occuparsi di giustizia sociale, occuparsi di diritti umani, bisogna sempre trovare dei punti di incontro, sempre più. Bisogna trovare dei punti di incontro tra le dimensioni laica e religiosa, bisogna iniziare a parlarsi e trovare qualche tema che ci aggreghi, piuttosto che altri che ci separino in quest'ottica un po' di iperspecializzazione che purtroppo non aiuta tanto. Quindi grazie anche per questo rimando che tutto sommato un po' ce l'abbiamo dentro, ma che qualcuno ogni tanto dica anche giusto, insomma è importante, da un po' di fiducia. E in questa prospettiva, quindi, io direi che possiamo aprire a una sorta di dialogo, di dibattito, aprendo a domande, contributi del pubblico. Quindi, adesso qua c'è un microfono, non so se va. Lo porti tu in... Ok, grazie, se no facevo io. Quindi, chi vuole fare una domanda o portare la sua riflessione, può farlo e Futura risponderà. Magari per voi la domanda. Grazie per questo libro, non l'ho ancora letto ma lo leggerò. Due riflessioni. Quanto questa cosa può essere fatta solo a livello italiano e quanto invece necessita di un accordo, almeno tu hai citato prima l'Europa, le elezioni europee, quanto sia importante che questo non sia, cioè che noi non diventiamo l'unica, cioè la pecora bianca o la pecora nera, a seconda di come lo si guarda, e quindi quanto è importante, non so se nel libro lo hai trattato, però quanto è importante che questo avvenga stimolando anche i nostri partner europei, perché ovviamente se lo facessimo da soli credo che otterremmo pochi risultati. La seconda cosa è quanto malaffare sta dietro al mercato delle armi, cioè quanta illegalità, quanto riciclaggio di denaro sporco, non so se lo hai trattato nel libro, però questo io negli ultimi 10-11 anni ho fatto molto lavoro all'estero, purtroppo in Egitto, in Ucraina, spero che non succeda niente alla Slovacchia, perché evidentemente non l'ho portato tanto bene, perché in Egitto sta succedendo quel che succede, in Ucraina lo stesso, Slovacchia per adesso è tranquilla. Però quanto davvero riciclaggio di denaro sporco ci sta dietro il mercato delle armi? Queste sono due cose. Grazie. Grazie per le domande. Sì, partendo dalla prima, sicuramente è importante che l'Italia non agisca da sola. Per questo secondo me il contesto europeo è molto importante. E non lo so, banalmente, queste sono opinioni personali, credo che anche partendo da anche investendo su delle regole comuni a livello europeo, quindi evitare che uno Stato faccia una cosa e un altro ne faccia un'altra, questo però richiede un lavoro effettivamente anche a livello di organizzazione dell'Unione Europea, perché ad oggi noi non abbiamo una politica estera comune, per esempio, è il motivo per cui non abbiamo una politica di difesa comune, nonostante si continui a parlare di questo tema. Non abbiamo neanche una politica industriale comune, che secondo me è importante, perché a quel punto una politica industriale unita a una politica di estera comune, quindi poi di difesa, ci permetterebbe di avere un quadro europeo effettivamente comune, cioè per cui se l'Italia non fa una cosa non lo fa neanche la Francia, per esempio, non lo fa la Germania. Quindi questo vuol dire avere delle regole comuni, veramente uguali per tutti sull'export, ed evitare che poi le aziende si facciano anche la guerra in questo senso. Perché anche quando ci fu il caso che citavo prima delle bombe che abbiamo inviato in Arabia Saudita, quando poi vennero cancellati gli ordini, se ne parlò di un caso di applicare la legge in maniera simile anche per la Turchia dopo che invase la Siria del Nord la prima volta. E lì, quel caso c'era Di Maio, il nostro ministro degli esteri, disse ok, però se non lo facciamo noi di continuare a vendere la Turchia, lo farà la Francia, lo farà qualcun altro. E effettivamente il tema era un tema importante, per cui servirebbero delle normative realmente europee, che ci sarebbero anche perché c'è una normativa europea che dovrebbe regolare l'export a livello nazionale, però poi vediamo che non è in realtà così incisiva perché è un tema che continua a essere di appannaggio nazionale, non effettivamente europeo. E poi tra l'altro manca un organo realmente coercitivo, quindi sì, la legge è importante averla, se però tu la violi non hai effettivamente qualcuno che ti viene a chiedere conto di quello che hai fatto o che non hai fatto, diciamo, serve poi giusto, cioè diventa più una dichiarazione di principio che non effettivamente una legge. Quindi sì, penso che per questo citavo anche poi la componente politica quanto è importante, perché poi anche a livello europeo avere dei rappresentanti che portano avanti queste istanze, e prima della guerra c'erano molti che lo facevano, principalmente derivanti dalla parte della Germania. Adesso con la guerra purtroppo è tutto un po' tornato nel dimenticatoio, però per un periodo si è parlato di rendere molto più stringenti le regole europee a livello europeo, appunto relative all'export, quindi magari... Poi il futuro non è detto che non si riprendano questi progetti, che comunque no, è anche ad un livello abbastanza avanzato di formulazione. Quindi io spero che a breve si ritorni su questo tema. Sul secondo punto che ponevi, sì, sicuramente ce n'è tantissimo. Ovviamente essendo nero, essendo riciclaggio, è difficile avere delle quantità, avere dei dati su questo. È difficile addirittura avere dei dati certi su quello che è la parte legale, quindi proviamoci su quella illegale. Sicuramente ci sono delle cose che ogni tanto vengono fuori, ma che in parte si possono, secondo me, anche un po' individuare quando banalmente si fanno le analisi di un report che il governo stila ogni anno, perché poi la legge 185 del 90 prevede anche che il governo una volta l'anno dia al Parlamento, poi anche a noi, perché sono disponibili online, un report in cui sono presenti tutti i dati sulla vendita di armi, le varie transazioni effettuate durante l'anno. Che però non è un report fatto molto bene, in realtà ha molte lacune alle volte. Però è interessante vedere che ci sono dei momenti, delle parti in cui sono segnalate delle transazioni economiche per delle operazioni di mediazione, che però poi non portano a degli acquisti effettivi. Quindi tu hai uno stato che paga dei mediatori per un'acquisizione che poi non avviene, e ci può stare in alcuni casi, in altri comunque un po' di sospetto te lo fa sorgere. Poi sì, il mercato nero delle armi è un mercato sempre fiorente purtroppo, volontariamente o non, nel senso non ci voglio vedere una strategia statale alle volte, però abbiamo visto anche il caso della Libia, e dopo la caduta di Gheddafi, dopo l'Africa è stata trovare vivente armi cedute al regime in tutte le parti poi del continente, e lì ovviamente sono tutti soldi assolutamente neri e traffici illegali. C'è poi un problema anche delle triangolazioni, per cui magari l'Italia vende materiale militare a un certo paese, l'abbiamo visto tutto il caso che citavo prima dall'Arabia Saudita, e poi quelle armi finiscono da un'altra parte. Sono finite addirittura in Myanmar, che comunque ha anche lì c'è un embargo bello forte, però passando probabilmente dalla Turchia sono arrivate comunque anche là, sono arrivate anche in Iran, la polizia iraniana ha sparato proiettili italiani contro i manifestanti. Anche lì non l'abbiamo venduta direttamente noi, sono triangolazioni, quindi è un mondo molto complicato, è complicato addirittura nella parte in chiaro, quindi figuriamoci in quella che è oscura, non a caso. Salve, volevo solo chiedere, l'esercito italiano a cosa serve? Sulla carta per la nostra difesa, quindi comunque è previsto che tutti gli stati e quindi un italiano abbiano un esercito per la difesa da minacce esterne. Poi andiamo a ragionare su quello che personalmente uno ritiene serva o meno, però dall'altra io personalmente sono per il disarmo, per arrivare ad un mondo che sia veramente un mondo pacifico. Purtroppo non credo lo vedrò. Però lo vedranno le prossime generazioni, anche se insomma questa guerra non fa esattamente ben sperare da questo punto di vista. Però ecco, per quanto il mio sogno sia quello, mi rendo conto che in questo momento anche cioè uno stato senza un esercito, per come sono messe le relazioni internazionali, sia difficilmente immaginabile. Quindi effettivamente serve per la nostra difesa, sì, però bisogna capire questa difesa, questa necessità di difesa, quanto ce la stiamo poi autocreando. Quindi è una domanda molto complessa, in realtà. Vuoi sapere qual è la sua opinione su questo, in realtà, a questo punto? No. Quello è vero, però l'esercito è anche dispiegato all'estero, quindi comunque vuol dire che... Quindi è anche una questione di proiettarsi in certi scenari e quindi avere anche una voce in capitolo, poi, quando ci sono da prendere certe decisioni, perché comunque l'Italia fa parte dell'Unione Europea, ma fa parte ancora prima della NATO, Quindi avere un esercito, avere delle forze da mandare all'estero vuol dire avere una certa importanza poi su, a livello geopolitico. Quindi l'esercito non è soltanto difesa in senso puro, cioè qualcuno ci attacca all'esterno e quindi noi opponiamo una resistenza, ci difendiamo, vuol dire anche avere uno strumento geopolitico a tutti gli effetti, è uno strumento di politica estera, tra le varie cose. Grazie innanzitutto di questo bellissimo libro e di questo contributo che ci hai portato stasera. La domanda del nostro concittadino mi ha fatto venire in mente che in realtà l'esercito italiano che cosa serve? Mi ha fatto venire in mente che io ho lavorato anche in Somalia e lì c'era vicino a dove lavoravo io una dozzina di militari dell'aeronautica, visto che Daniela l'ha citata. E cosa facevano queste dozzina di militari? Addestravano i somali di allora, tu forse non eri neanche nata, parlo degli anni Ottanta. Cosa facevano? Aiutavano, trainavano, esercitavano l'utilizzo dei MiG. E queste MiG, alla fine, io sono stato solo 2 anni lì, però mi ricordo che verso la fine c'è stata la guerra, Siad Barre è stato scappato, c'è stata la guerra civile che continua ancora oggi, guarda caso, e i MiG italiani sono andati a bombardare Hargeisa, che è una città del nord, perché Siad Barre voleva cercare di tenere in mano il paese. E quindi io lavoravo nelle Nazioni Unite e sono andato a contare le vittime, soprattutto i bambini, perché lavoravo con l'UNICEF. Quindi l'esercito italiano fa queste robe qua. E non dobbiamo dimenticarcelo che ci sono tante contraddizioni nella nostra politica estera. Nell'Africa ne abbiamo combinate di tutti i colori. Anche il fatto stesso che tu cercavi di darci un po' di speranza, e questo lo condivido e sono qua perché ci credo e sono un pacifista convinto, però mi rendo anche conto che ci sono delle contraddizioni eclatanti. Una per tutte, in Etiopia il presidente ha ricevuto il premio Nobel per la pace e poi ha portato avanti una guerra dove i civili sono molto di più di quelli dell'Ucraina, però noi non lo sappiamo. Per dire che sono contento per sottolineare l'importanza del tuo libro, perché tutte queste cose qua che tu scrivi in questo libro, il 99,9% degli italiani non lo conosce. Non so se sono troppo negativo, però, e quindi è importante che ci sia una voce che ci aiuta a capire le realtà vere. E dire, meno male che ci sono dei personaggi come Zanotelli, perché se no noi non ce ne rendiamo conto, ma siamo veramente lontani da avere un atteggiamento che assomiglia un po' alla nostra Costituzione. È questo. Grazie per l'intervento, sì, effettivamente sono proprio quelle contraddizioni che sono però anche una spia di quello che succede, quindi sono quello a cui noi ci possiamo appigliare nel momento in cui dobbiamo chiedere conto di quello che viene effettivamente fatto. E ancora più che l'Etiopia, che molto spesso mi rendo conto che ci sembra un mondo distante, quanto per la fine non lo sia, d'altro anche la nostra ex colonia, però abbiamo questo grande rimosso del passato coloniale in Italia, purtroppo. Appunto il caso che citavamo prima della Libia, che ugualmente noi forniamo addestramento e forniamo mezzi militari ad un paese che poi è un paese tra l'altro diviso al suo interno, quindi anche soltanto trovare uno stato è difficile, che poi comunque attacca i nostri stessi pescherecci, li sequestra, che l'abbiamo visto qualche anno fa con quelli del siciliani, che comunque adesso attacca anche le ONG, cioè quello è anche un altro caso su cui bisognerebbe insistere, però ecco, abbiamo bisogno anche in quel caso di una politica che sia ricettiva, però per fortuna abbiamo ancora una società civile che su queste cose investe molto e che fa presente questo tipo di contraddizioni. Purtroppo ecco, il governo che abbiamo al momento sicuramente non sarà quello più ricettivo, però dobbiamo forse cercare di puntare su quelli che dovrebbero essere i veri ricettori di queste istanze, che non lo sono state fino ad ora, perché comunque il memorandum di Minniti appunto porta la firma di Minniti o di Gentiloni, non quella di Meloni. C'è molto da fare, però ecco appunto, perdere la speranza mi sembra la soluzione meno auspicabile, che vuol dire a quel punto veramente che se già così fanno queste cose, se non ci interessassimo, non voglio immaginare a cosa si arriverebbe ad accettare o a fare. Grazie. Io faccio solo una domanda. Obiezione alle spese militari. Ha ancora un senso? Può avere un senso? Può essere ripensata per incidere su queste cose? L'obiezione, signor. L'obiezione alle spese militari, di forse appunto non era ancora nata quando la si faceva, poi no. È scomparsa, però potrebbe avere un senso. Io veramente non so di cosa stiamo parlando, mi sa. Mi scusi. Nella denuncia dei redditi. Ah, ok. Ok. Non si pagava, sì, anzi sì. Si pagava il doppio, perché no, dichiaravi di non volerlo pagare, ma poi te li pigliavano lo stesso, sì. Per la spesa militare. Allora, può avere ancora senso un'azione di questo genere? Può essere ripensata in maniera più efficace? Non so. Sarebbe male, perché vuol dire anche avere un indice maggiore di, cioè per capire effettivamente voi quanti in Italia siamo contro questo tipo di spese, perché ok, i sondaggi alle volte lasciano un po' il tempo che trovano, perché una volta che vai a vedere quante persone sono state intervistate magari è una percentuale, sì, abbastanza per farci un sondaggio, ma magari non realmente rappresentativa, mentre veramente questo credo potrebbe essere invece un buono strumento, che in teoria la facciamo un po' tutti la dichiarazione dei redditi, poi vabbè, sappiamo che in Italia abbiamo un grande problema anche con quello, però in teoria potrebbe essere, al netto dell'evasione fiscale, sicuramente uno strumento per capire anche qual è il sentimento generale della popolazione italiana. Quindi no, ovviamente non ci avevo pensato, ma credo che sarebbe interessante sicuramente come metodo di analisi. Lo riproporremo nel prossimo libro che lo inseriamo. Una cosa che facevamo negli anni, all'inizio del 2000, era partita un'iniziativa che si chiamava Boicottare le banche armate, che sono le banche che finanziano la produzione di armi e il commercio di armi. Era riuscito, sembrava che riuscisse abbastanza bene, perché se non ricordo male il presidente dell'Unicredit aveva dichiarato ufficialmente che avrebbe esaurito i finanziamenti alle ditte che la sua banca faceva alle ditte, e poi da quel momento lì avrebbe rinunciato a finanziare il commercio e la produzione di armi che non fossero destinate all'esercito italiano. Lui aveva dichiarato una cosa del genere in un'intervista. Poi non so adesso quale sia la situazione, però secondo me una soluzione di questo genere, se la cosa fosse diffusa a livello di centinaia di migliaia di persone, evitare di avere conti correnti con le banche che finanziano gli armamenti e soprattutto il commercio di armamenti all'estero, e non comprare azioni delle aziende che lei ha citato prima, sarebbe un'azione significativa. Un'altra cosa che volevo dire: recentemente, alla fine di dell'anno scorso, Torino è diventato il centro, coinvolgendo soprattutto il Politecnico e altri centri di ricerca, per lo studio, la programmazione di sistemi d'arma per la NATO a livello europeo. E questo è stato approvato già con la beneplacito del governo Draghi, non di chissà quale governo fascista come quello attuale. E perciò siamo in una situazione, Mi sembra assurdo che io posso capire che la ricerca può essere interessante, però quella ricerca lì è specifica per sistemi d'arma ad alto livello elettronica, adesso non mi dilungo, non ho approfondito l'argomento perché molte di queste cose sono ovviamente segretate. Un'altra cosa, questa non è una domanda ma è soprattutto una valutazione, io sono di Legambiente, ieri ho letto che nel rapporto sui cambiamenti climatici che riguardano il Mediterraneo siamo già arrivati a 1,5 gradi in più rispetto all'inizio dell'era dei primi del Novecento. Perciò questo significa che noi, e infatti lo vediamo qui in Piemonte dove abbiamo la principale presenza d'acqua d'Europa praticamente, a parte la valle del Danubio, è secco attualmente per il secondo anno, ma non è il secondo anno perché ci siamo dimenticati il 2008 e l'anno scorso e quest'anno, perciò sono già 4 anni che abbiamo livelli di siccità gravissimi in Nord Italia, e l'uso e la produzione di armi in alcuni paesi, soprattutto negli Stati Uniti, incide per il 30% almeno sui cambiamenti climatici. Non solo perché è una produzione come qualsiasi altra produzione, ma perché non c'è a livello planetario, né l'ONU né nessun organismo ha mai messo in dubbio o chiesto alla produzione di armi di limitare i sistemi, cioè un motore diesel da 25.000 centimetri cubici di un carro armato, non c'è nessuno che gli chiede di limitare la produzione di inquinanti. Questo vale per gli aerei, per le navi, per qualsiasi cosa, cioè è l'unico settore dove ne viene imposto un limite. Grazie. Grazie a lei per le domande. Sì, sicuramente la parte delle banche etiche, tra l'altro è una questione che seguo per quello che posso capire di finanza, purtroppo sono un po' più limitata, però effettivamente sono battaglie molto interessanti che coinvolgono anche tutti quanti noi, perché vuol dire che anche avere un conto corrente con Unicredit o con altre grandi banche è un modo indiretto di finanziare questo tipo di impresa. Certo, dovremmo veramente fare un'azione molto massiccia per cui passare tutti quanti a banca etica, sarebbe molto bello sicuramente se riuscissimo a farlo. Dall'altro, secondo me c'è stata anche un'opportunità molto mancata, per cui quando si è discusso anche a livello europeo, in questo caso, di legare i finanziamenti o comunque anche alle emissioni, cioè quanto era importante limitare anche sovvenzioni da parte dell'Unione Europea o comunque agevolazioni a quelle banche che poi andavano a finanziare progetti che avevano un grosso impatto ambientale. E lì purtroppo poi sono state fatte molte pressioni dalle lobby del sistema della difesa. Effettivamente inizialmente sembrava che tutto quello che avesse a che fare col mondo militare doveva non rientrare nella categoria verde, mettiamo in questo modo, e poi invece le banche sono riuscite comunque a fare una grossa pressione e di questo non si è più parlato. Per cui anche a livello europeo, appunto tornando al discorso che facevamo prima, ci sono dei margini su cui io penso che si dovrebbe molto investire, quindi anche tutto questo discorso della transizione ecologica è importante perché si lega poi anche al settore finanziario e bancario. Quindi sì, è importante che anche ognuno di noi prenda coscienza di quello che può fare, perché appunto anche dal piccolo si può arrivare poi al grande passo dopo passo, però abbiamo anche gli strumenti già grandi che pure è importante utilizzare. Torniamo al discorso di prima, serve una politica che sia ricettiva, però sta anche a noi imporre determinate istanze e far sì che la politica sia ricettiva per diventare politica, che sennò poi uno rimane fuori dal Parlamento, forse qualcosa impara. E questo quindi lo collegherei anche al discorso dell'inquinamento. È vero, non c'è questa pressione come dovrebbe esserci sul mondo della difesa, ma tra l'altro vediamo anche che il protocollo di Tokyo non prevede che la difesa, in quanto proprio esercito, debba rendere ufficiali e chiari i dati sulle emissioni delle basi militari, per esempio, o in generale tutto il settore, perché serve per proteggere anche lì l'interesse statale, quindi c'è un segreto militare su questo. Cioè, anche soltanto avere dei dati è importante, siamo anche carenti su questo punto di vista, ci sono tantissime stime, sono importantissime, perché i danno un'idea ma non sono comunque complete, quindi non ti permettono nemmeno di affrontare il problema con, avendone una conoscenza totale, che pure ti limita nelle azioni che puoi portare avanti. Però certo, cioè, la questione non è nemmeno a quel punto rendere i carri armati ad energia elettrica piuttosto che a metano, cioè... No, no, tra l'altro non li vogliono, però alla fine di questo discorso se ne parla molto anche in un ambito non militare, che è quello delle navi da crociera, e poi però anche lì sono venute fuori delle questioni ecologiche, per cui passi dal gas all'elettricità, ma comunque è un impatto ambientale che veramente... Cioè il problema non è quello che usi, non è se è il carburante, il metano e il diesel, il problema è che proprio cioè, tu hai un impianto militare che forse non ha bisogno di essere così grande e quindi di impattare a questi livelli. Poi vabbè, vediamo che in Italia il PNRR in teoria dovrebbe essere utilizzato anche per rendere green le basi militari, quindi poi, cioè, alla fine veramente vengono fatti dei pasticci incredibili. E sì, l'ultimo per chiudere, il fatto che lei citava il Politecnico e gli accordi che ha con la difesa, questo è un tema su cui cerco di porre un po' più l'attenzione ultimamente, perché personalmente a me spaventa il fatto che ci sono sempre più commistioni tra il settore della difesa e quello dell'istruzione, non solo a livello accademico, in cui comunque abbiamo molto spesso studenti o professori che sono in grado di capire dove si sta andando, ma anche nell'ambiente scolastico, elementare, medie, liceo, in cui comunque, soprattutto non sono elementari, uno ha meno consapevolezza appunto di quello che sta facendo, perché qua siamo arrivati ad avere a fare l'alternanza scuola-lavoro alla base di Sigonella, non è proprio... l'ultima delle mi sembra, personalmente io lo trovo preoccupante, o comunque i bambini delle elementari portati ad acclamare Meloni sull'F-35, cioè sono dinamiche che vanno secondo me attenzionate tanto quanto l'aumento delle spese militari, perché poi viaggiano di pari passo. Una domanda piccola piccola, ci racconti qualche informazione sulla genesi di questo libro? Come ti è venuta l'idea? Da dove sei partita? Volentieri, grazie. Grazie. Prima di tutto, ovviamente questo è un grande grazie ai miei editori che sono là dietro, perché questo libro è stata ovviamente una loro idea, nel senso che loro leggevano i miei articoli su Domani e avevano già in mente di fare un libro su questo tema, e quindi mi hanno contattata e proposto questo progetto che insomma, io ho accolto con grande piacere, perché prima di scrivere questo libro scrivevo di armi e principalmente di export militare verso appunto paesi del Medio Oriente, che è di base l'area di cui io mi interesso, e quindi poi da lì è nato questo libro. L'interesse in generale per questo mondo, diciamo, un po' ce l'ho sempre avuto, che appunto io mi sono sempre occupata di Medio Oriente, quindi il Medio Oriente purtroppo è un terreno martoriato da varie guerre più o meno aperte. E nello specifico, ecco, mi sono avvicinata un po' di più a questo settore nel 2019, quando 2020 poi in realtà, quindi con la pandemia, in cui non sono più potuta andare in Medio Oriente, perché non potevamo più neanche uscire di casa, quindi figuriamoci andare in Turchia, e ho iniziato a seguire molto la storia dei portuali di Genova, che fanno parte di un collettivo autonomo che si chiama CALP, che hanno bloccato il carico di alcuni generatori, quindi in teoria per uso civile, su delle navi, che sono 6 navi battenti bandiera saudita, che fanno avanti e dietro dall'Arabia Saudita agli Stati Uniti, passando per l'Europa. Di solito fanno scalo a Genova in Italia, oppure a Marsiglia, piuttosto che a Bilbao in Spagna, poi dipende insomma dalle rotte. E questi portoni hanno bloccato il carico di questi generatori perché in realtà erano diretti alla Guardia Reale Saudita, che è a sua volta invischiata nella guerra in Yemen. Quindi loro hanno insomma fatto questa azione dimostrativa, è stata molto importante, anche perché la 185 del 90 per l'appunto vieta l'export, vieta anche il transito. Cioè, quindi il materiale non può essere caricato o scaricato sui porti italiani se... insomma, porti come a qualsiasi altra parte del territorio nazionale, sono diretti verso stati non europei, appunto stato di conflitto, che partecipano a guerre o in cui non si rispettano i diritti umani. 2 criteri su 3 l'Arabia Saudita li rispetta, quindi non rispetta i diritti umani, è uno stato che comunque contribuisce a un conflitto. E quindi questa storia insomma mi ha un po' fatto ancora più interessare a questo settore. Devo dire anche perché ho trovato un giornale che appunto è Domani, che mi ha permesso di scrivere di queste cose, perché con altri ho avuto in realtà un po' di problemi, perché molto banalmente non ero un analista, soprattutto ero donna, sono tuttora, quindi questa cosa era molto più appannaggio di miei colleghi maschi che non mio, con alcune testate invece. Diciamo, è stata un po' una serie di eventi fortuiti, forse da domani ai miei editori, e a parte forse anche la pandemia, la cerchiamo di trovare qualcosa di positivo in quello che è successo. E poi purtroppo la guerra in Ucraina ha reso sicuramente ancora più attuale tutto questo mondo, però ha una genesi un po' più lontana. Bene, io non so se ci sono altre domande, ma direi che ci possiamo avviare alla chiusura. Io intanto ringrazio tutti voi che siete intervenuti, ringrazio gli editori e ovviamente Futura per questa presentazione. Ricordo due o tre cosette che possono entrare nel dibattito, insomma, in questa serata. Una è che il 21 maggio ci sarà la prossima Marcia della Pace Perugia-Assisi, un cammino, come dicevo prima, che abbiamo percorso con tante persone che su questi argomenti, insomma, sono con noi, da Rete Italiana Pace e Disarmo a Zanotelli, a Don Ciotti, insomma, quelli con cui camminiamo da sempre. L'altro è che il prossimo mese, cioè ad aprile, ci saranno anche le giornate internazionali di azione contro le spese militari. Da metà aprile fino a metà maggio c'è una serie di giornate e magari in quel periodo lì proviamo a fare attenzione a quello che c'è, a porre un po' più di attenzione. L'ultima cosa è il trattato di proibizione delle armi nucleari, che mi pare che anche in Consiglio Comunale di Asti, grazie ai consiglieri presenti, ecco, si stia portando avanti la pressione, la campagna di pressione perché l'Italia aderisca a questo trattato che è entrato in vigore nel 2021. Ecco, mi sembra che siano, insomma, tutti i temi un po' attinenti, spero, a quello che ci siamo detti. E quindi io concluderei ricordando che domani qui alle 9 ci sarà l'incontro delle ACLI aperto, che parlerà di transizione ecologica, se dico bene, e quindi invito tutti poi nuovamente domani mattina qua e pomeriggio al foyer, e ringrazio nuovamente Futura con un bel applauso per